Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Due donne e due giornaliste decidono di passare un mese in Iran, oltre 7.000 chilometri percorsi a bordo di mezzi pubblici per scoprire un paese diverso. Da questa esperienza nasce un libro, Le rose e il chador, Iran, viaggio nel paese gentile, scritto da Barbara Nepitelli e Cesarina Trillini, pubblicato da Fasi di Luna. Ma perché questo sottotitolo, Viaggio nel paese gentile? Sentiamo le due autrici intervistate da Elisabetta Fiorito. Inizio subito col dire che questo libro non nasce con l'intenzione prima di partire di diventare un libro. Siamo partite con esclusivamente la sensazione di vivere un viaggio e di incontrare delle persone e con molto timore nei confronti di un paese che pensavamo un po' cupo, che a noi in Occidente ci torna come un paese legato a violenze, quantomeno, repressioni e censure. E già dal titolo abbiamo voluto indicare quanto questo paese sia diverso dall'immaginario e dagli stereotipi che ci arrivano solo attraverso dei semplici mezzi di comunicazione senza toccare la realtà. Ancora di più nel sottotitolo l'abbiamo voluto fare mettendo in contrasto proprio il termine, il nome del paese stesso, Iran, che appunto rappresenta questa cupezza, diciamo così, e invece la cortesia e la gentilezza persiana, da sempre elemento caratterizzante quando si parla di Persia. E la gentilezza noi l'abbiamo ritrovata nei colori del paese, nell'accoglienza che abbiamo avuto, nella possibilità di vivere in molte case e di incontrare persone che non solo ci hanno aperto la loro casa e accolto, ma che ci hanno fatto vedere un mondo anche fatto di poesia, anche fatto di un abbigliamento che è diverso tra quando si gira per strada e quando si è fuori dalle mura di casa e quando si è dentro la propria casa. Ecco, proprio sull'abbigliamento io vorrei un attimo aprire ovviamente la discussione su il fatto fondamentale del velo, no? Che è obbligatorio in Iran, e voi descrivete anche la difficoltà, poi nella foto di copertina apparite tutte e due con questo bellissimo velo colorato, anzi addirittura all'inizio avete difficoltà a vedere qual è il tipo di velo, nero, verde, giallo, blu. E che cosa vuol dire, Barbara Nepitelli, viaggiare in un paese che comunque, come tutti i paesi dove c'è una dittatura islamica, discrimina le donne? Sì, abbiamo sentito che in realtà gli iraniani non sono arabi, lo sappiamo, sono persiani, sembrano un po' gli inglesi del Medio Oriente, però che cosa vuol dire per voi, due donne da sole, viaggiare in un paese dove generalmente le donne viaggiano solo con gli uomini, sono sempre accompagnate e hanno sempre il velo? Naturalmente prima di partire ci siamo poste insomma la questione, e molte persone insomma hanno sollevato dubbi sulla decisione che avevamo preso. Sul velo effettivamente c'è un disagio del velo che nasce dal fatto che noi siamo abituate a vestire insomma nella maniera in cui scegliamo, insomma la mattina, no? Apriamo l'armadio e indossiamo quello che ci va. Lì invece c'è un abbigliamento codificato. E là, oltre al velo, chiaramente anche insomma tutto il corpo deve essere più o meno, diciamo, comunque coperto. E infatti i nostri dubbi nel preparare la valigia in partenza hanno riguardato sia il tipo di copertura per la testa, quindi il velo, la lunghezza, il colore, la trasparenza, sia anche la possibilità di portare tuniche che lasciano magari scoperto un pezzettino di polso oppure devono coprire integralmente il braccio. E anche ci siamo posti, visto che andavamo nel periodo di agosto, che è un periodo molto caldo anche in quel paese, se fosse possibile e opportuno viaggiare con i piedi scoperti, nudi, oppure insomma dover indossare delle calzature che coprivano integralmente il piede. E qui avete compiuto un piccolo sbaglio: non avete portato le adorate Birkenstock. Nonostante insomma avessimo, come dire, tentato di reperire informazioni prima di partire, leggere libri, sentire persone, eccetera, eccetera, quel punto interrogativo su Birkenstock sì o no era rimasto. Piede scoperto o piede coperto. Esatto. E alla fine abbiamo deciso per il piede coperto, per non sbagliare. Scarpa leggera, ma piede coperto. E poi abbiamo invece realizzato che si può tranquillamente indossare qualunque tipo di sandalo. Tornando al velo, che poi è l'aspetto ovviamente che colpisce di più, insomma, anche dall'esterno, ci siamo rese conto appunto anche di un altro, di una realtà molto più variegata rispetto a quella che immaginavamo, nel senso che appunto tutti nell'immaginario, diciamo, occidentale, il velo lo legano, insomma, al chador o addirittura, insomma, a forme ancora più coprenti. Però avete visto anche che ci sta una differenza, ci sta una differenza, per esempio c'è il velo che copre il collo, che è il hijab, mi sembra, sì. Poi c'è anche la maschera. Sì, cioè... sì, ci sono, diciamo, si declina la necessità dettata dalla norma islamica anche con le tradizioni locali, per cui praticamente c'è il velo, il chador nero classico, ci sono varie forme di foulard che variano in piccoli villaggi, per esempio ad Abiané ci sono dei bellissimi scialli con le rose, così come le donne nel nord del paese hanno pure degli scialli damascati o fiorati molto belli. E c'è nel sud del paese, vicino Bandar Abbas, questa tradizione del burka bandari, che è il burka che appunto è, come tutti insomma più sanno, un velo integrale che copre il viso, accompagnato da una maschera che, diciamo, come un po' quelle che potremmo dire da noi le maschere di carnevale, insomma, copre integralmente la faccia lasciando semplicemente la fessura per gli occhi. Diciamo, il contrasto forte fra questa copertura integrale e i colori e diciamo, le fantasie dei tessuti, perché la maschera normalmente è rossa, trapuntata con dei colori gialli, verdi, può essere insomma anche violetta, e diciamo, il velo è normalmente fiorato. Che Iran avete trovato? L'Iran è diverso a casa e diverso fuori, ovviamente, no? Questo è un contrasto veramente incredibile. Tra il dentro e il fuori, per le strade ti sembra molto spesso, soprattutto nelle grandi città o nelle città forse più osservanti dal punto di vista religioso, molti chador neri, molta attenzione nei comportamenti da tenere per strada tra le persone e tra i ragazzi. Poi all'improvviso, e questa è la cosa che ci ha un po' più sconvolto, diciamo, nell'approccio, che in molte situazioni noi non sapevamo come comportarci tra il dentro e il fuori. Entravamo in una casa e tenevamo il velo e ci veniva detto: no, ma non c'è problema, dentro in casa noi non lo teniamo mai il velo, sentiti tranquilla. E all'improvviso scoprivi nella casa dove eri ospite, dove sei stata, oppure siamo stati invitati a cena in molti posti, che la padrona di casa era probabilmente più alla moda di noi, che avevamo fatto invece una valigia, chiaramente, no? Sempre con la sensazione, con la volontà di viaggiare leggeri. E poi i capelli, le acconciature e i trucchi che vedi nelle donne, sono delle donne e nelle ragazze. Le ragazzine giovani hanno questa cosa straordinaria di avere sempre un ciuffo che esce fuori proprio, è quasi la prima cosa che vedi, e hanno un trucco di occhi, mani e di tutte quelle parti del corpo che si vedono nonostante la mortificazione del chador, che per noi viaggiatrici occidentali erano: ma come? Questi dovremmo essere noi, non loro. E qui ci sorprendevano continuamente. Il libro di cui abbiamo parlato è Le rose e il chador. Anche per oggi è tutto. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.